mi sembra proprio che il titolo in questo caso sia azzeccato, perché quello che sta accadendo è qualcosa che corrisponde a questo titolo. Tu in un altro articolo poi metti in fila tutte le cose che non tornano di questo attentato. Quali sono? Tanto il fatto che gli attentatori hanno sempre il volto schermato nel video del sedicente ISIS, mentre sono a volto scoperto e filmati sia dalle telecamere di sorveglianza che dai cellulari dei presenti che hanno avuto la freddezza di filmare l'accaduto. Quindi non si capisce perché proteggere l'identità di martiri che sicuramente non sarebbero tornati a casa. Se vediamo tutte le altre occasioni in cui l'ISIS ha presentato i propri combattenti per azioni all'estero, l'ha sempre mostrato con il loro volto scoperto, perché la gloria ai martiri in quella logica è dovuta addirittura. Uno, secondo, sono stati presi anche, ed è stato anche verificato, da collegializzazioni sulla strada che portava in Ucraina, che per dei terroristi islamici dovrebbe essere teoricamente un posto non interessante. Che sono, diciamo, le due cose principali, unificate dalla fretta con cui sia gli Stati Uniti che tutti quanti gli Stati europei e il sistema mediatico nel suo complesso ha deciso che l'ISIS nell'Ucraina non c'entra, mentre queste cose, essendoci oltretutto quattro attentatori, se sono loro ancora vivi, c'è spazio e tempo per sentire notizie più sicure, ecco. Tutto ciò avviene in un contesto di costante riarmo e di, come dire, in Occidente aumento di toni. Addirittura il presidente francese Macron ha detto: prepariamoci alla guerra. Questa è la cosa che giustifica il titolo sull'escalation, perché ormai sembra che è capito che più l'Europa che gli Stati Uniti addirittura si siano rassegnati a questa prospettiva, non solo con l'aumento delle spese militari, ma anche con operazioni che dal punto di vista finanziario rischiano di essere boomerang irreversibili, tipo sequestrare 3 miliardi di profitti per i beni russi, cioè della banca centrale russa, depositati nelle banche europee, significa mettere in discussione la proprietà privata, lo dico ironicamente, naturalmente, da comunista lo dico ironicamente, ma significa mettere in discussione la proprietà privata. E se questa cosa diventa un precedente, tutti gli stati che hanno la stessa situazione, cioè asset in Europa e negli Stati Uniti, penso all'Arabia Saudita, penso ai paesi del Golfo, alla Cina, eccetera, se possono vedere i loro beni sequestrati per ragioni politiche, mi sembra chiaro che li ritireranno abbastanza velocemente, causando qualche piccolo problema sui mercati occidentali, diciamo. Fin dall'inizio del conflitto in Ucraina, l'opinione pubblica italiana e anche europea è sempre stata contraria anche all'invio di armi. A chi giova un'escalation? Giovare non giova a nessuno dal punto di vista dell'intelligenza umana, ma purtroppo le guerre esplodono, scoppiano quando abbiamo delle classi politiche totalmente irresponsabili e anche parecchio ignoranti, guardiamo il caso italiano, e, come dire, una dinamica che sembra autonomizzarsi rispetto alle scelte, come se bisognasse fare per forza qualcosa, altrimenti chissà che succede e si entra in una spirale del botta e risposta fuori controllo. Va da sé che se si traduce dai venti di escalation alla pratica è un disastro. È un disastro, sì, perché stiamo parlando di potenze nucleari, insomma, cioè non l'Europa a parte la Francia, ma la dottrina nucleare sia degli Stati Uniti che della Russia, che dell'Inghilterra o della Gran Bretagna o della Francia sono assolutamente identiche. Le armi nucleari sono utilizzabili in caso di minaccia esistenziale per la sopravvivenza e l'unità dello Stato. Questa cosa, se diventa plausibile, poi diventa un'idea di Dio, insomma, si precipita in un attimo. Questione di secondi, mentre stiamo parlando, può essere già finita. Ecco.